Euroreportage. Se la piccola Svizzera agita l'intera Europa, di Raffaella Calandra. Tanti frontalieri attuali non sono per niente minacciati da questa votazione. A chi approfittano veramente gli accordi bilaterali? Alla Svizzera o all'Europa? Guarda dalla sua edicola le centinaia di frontalieri scesi a ritmo continuo dalla funicolare di Lugano e a voce alta questo svizzero di mezza età dà fiato al dubbio dell'intero paese. Il voto che per decisione popolare riporta un limite all'ingresso dei lavoratori stranieri è sulle prime pagine di tutti i giornali, di tutte le lingue, insieme alle minacciate ritorsioni di Bruxelles. Quel confine che 80.000 persone ogni giorno superano per andare a lavorare in Svizzera ora sembra segnare ancor di più, ma in realtà solo all'apparenza, la divisione tra residenti e gli altri, i frontalieri. Io sono frontaliera. Mi aspettavo una decisione del genere, nel senso che ultimamente è cresciuto un po' d'assi, un po' di critica riguardo alla presenza di così tanti frontalieri in Ticino. Lei da dove arriva? Io da Como. Voi qui avete lo stesso contratto o avete contratti diversi tra residenti e frontalieri? Abbiamo contratti diversi. Ci possono essere anche 800 franchi di differenza. Le speranze si riducono, questo sì, però c'è anche da dire che credo che i frontalieri servano. Siete preoccupati per questo voto? Sì, veramente. Non si sa come andrà a finire. Lei da quanto tempo è una frontaliera? Da 20 anni quasi. Mi sveglio alle 6 del mattino, comincio a lavorare alle 8 del mattino. Un'ora di traffico pazzesco, nonostante che hanno fatto la galleria splendida da Porlezza arrivare a Lugano e poi avanti Savoia lavorando. Tra gli scaffali dei grandi magazzini, ai tavolini del bar, dietro gli sportelli delle banche o anche nei più tradizionali negozi di cioccolata, sono dappertutto i frontalieri che in molti casi guadagnano anche 800 franchi in meno dei loro colleghi svizzeri e ora per primi si interrogano su come possa essere tradotto in pratica il volere popolare. Ma non manca anche tra queste squadre di lavoratori che varcano il confine due volte al giorno chi anzi condivide le ragioni del voto popolare, perché ha visto in 10 anni di libera circolazione, dopo la sottoscrizione degli accordi con l'Unione Europea, aumentare esponenzialmente il numero di stranieri. Sì, diciamo che c'è molta confusione, perché anche noi siamo un po' disinformati. Spero di essere, cioè di pensare nel giusto, ma io sono contento. Voi non la percepite come una protesta nei vostri confronti? No, sinceramente no. Io personalmente... È d'accordo? Sostanzialmente sì. Pur essendo una delle persone che da fuori, dall'Italia, viene a lavorare qui, è d'accordo sul fatto che ci siano dei tetti? Sì, io sì. Questo treno resta a Lugano. Il treno da Lugano riporta verso Como e Porlezza ciurme di italiani su cui poggia la vita della maggior parte delle aziende qui in Svizzera. Come per decenni, dall'altra parte della dogana, intere generazioni di giovani hanno individuato nel Canton Ticino il sicuro approdo professionale. E ora dovrà cambiare anche l'economia di questi borghi, riflette una signora della provincia di Como a spasso tra vetrine di orologi e cioccolata. Forse qui, diciamo, era un'alternativa in più per i nostri giovani, anche quelli che studiano e tutto. Cioè, io sono un ex frontaliere, ho lavorato 24 anni in Svizzera, qua vicino a Lugano. E ora questo voto che effetto le fa? Mi preoccupa un po', perché dico in Italia non c'è lavoro, in Svizzera tagliano per i frontalieri. È sempre stato uno sbocco, disorienta un po' questo. Tra Svizzera e Italia tutto è più complicato di quello che sembra. Le famiglie sono spaccate da un confine che è come il loro formaggio, fatto di buchi. E questo spiega tanto il disappunto di chi non ha votato per il limite agli stranieri, come di quanti col 50,3% di sì hanno fatto passare un referendum che ora è una spina nel fianco dell'intera Europa. Mi piace perché io la vedo, l'ho vissuta come un razzismo, ecco, veramente. Questo mi dispiace. Per me è difficile perché, guardi, mia mamma è di Lugano e mio padre è veneto. Ho fatto fatica a porre il sì sulla schedina, però siamo arrivati a un punto dove bisogna effettivamente fare qualcosa, non si può andare in avanti così. Mi dispiace, ma il Consiglio federale deve prendere posizione adesso, soprattutto per il Canton Ticino. E invece della possibilità che questo voto in qualche modo isoli ancora di più la Svizzera rispetto al mercato europeo? All'inizio ho avuto un po' paura, poi dico a un certo punto anche l'Europa ha bisogno della Svizzera, non solo noi che abbiamo bisogno dell'Europa. Dal 2002, dall'introduzione dell'accordo di libera circolazione, la Svizzera ha più che raddoppiato gli stranieri accolti, pari al 23% degli 8 milioni di residenti, e i cantoni dove la disoccupazione resta a livelli lontani anni luce dagli standard a due cifre del resto del continente continuano ad attirare emigrati dal resto dell'Europa e soprattutto dal sud. 80.000 i lavoratori che giungono d'Oltralpe, spostandosi proprio come i capitali e proprio come le merci. The Council of the European Union. E non si può mettere in discussione un punto senza toccare tutto il resto, è il monito ripetuto di Bruxelles. I patti vanno rispettati, ha tuonato in modo esplicito il presidente della Commissione, José Barroso. La Svizzera, cioè, non può chiedere, come in una sorta di menù alla carte, cosa prendere dall'Europa e cosa no. Perché le quattro libertà sono indivisibili e non si può separare, aveva già chiarito Evangelos Venizelos, il greco presidente di turno del Consiglio d'Europa, la libera circolazione delle persone da quella dei capitali. Qua da noi con tutto sono più di 60.000 che entrano da, cominciano a essere anche tanti, non soltanto per, ma anche per la circolazione e tutto, c'è cioè un casino tremendo. Non avete invece timore che la Svizzera si isoli, che ci siano ripercussioni anche dall'Unione Europea nei rapporti commerciali col paese? Visto l'importanza reciproca degli scambi commerciali, credo che potranno arrivare a trovare una soluzione. L'alta allo spostamento dei capitali è tra le ritorsioni meditate da Bruxelles, che ha già congelato il negoziato sull'elettricità e quello sugli accordi internazionali. Il grande freddo tra l'Unione Europea e il paese che le sta proprio nel centro potrebbe però mettere in discussione anche i finanziamenti per la ricerca, compresi nel programma Horizon 2020, che riguardano pure il celeberrimo CERN, e potrebbero toccare finanche l'Erasmus. Questa chiusura preoccupa non poco, soprattutto le aziende elvetiche, che vedono nei prossimi mesi, prima che entro fine anno il governo di Berna presenti il suo progetto di legge per mettere in pratica il referendum, vedono il rischio di una lotta interna tra cantoni e tra settori dell'economia per aggiudicarsi quelle quote della fondamentale manodopera straniera. Vogliamo essere partecipi nella decisione delle regole, è il messaggio che la Confcommercio ha fatto avere all'esecutivo, lo conferma il direttore ticinese Luca Albertone. Ci si muoverà in un ambito di incertezza abbastanza grande ed è questo che preoccupa soprattutto le imprese. Le reazioni da parte dell'Unione Europea erano attendibili, quindi non turbano più di tanto, chiaramente preoccupano. Adesso c'è il grande interrogativo, ripartizione dei contingenti come fra le varie regioni, fra i vari cantoni. Le aziende sono sempre preoccupate per definizione, per gli accordi bilaterali per il momento sono ancora in vigore, quindi non c'è questo pericolo assolutamente immediato. È cambiato il clima innanzitutto, il negoziato sull'elettricità è stato già bloccato, è stato già interrotto e il Presidente del Consiglio europeo ha già detto esplicitamente che non si può separare la libera circolazione delle persone dalla libera circolazione dei capitali e delle merci. Che il clima fosse cambiato lo si percepiva già ancora prima della votazione, per cui non è stata nemmeno una grandissima sorpresa, almeno per noi. Siamo adesso costretti a lavorare in un contesto un po' più ostile. Credete che la Svizzera possa essere danneggiata dall'effetto di questo referendum? L'economia è sempre preoccupata quando ci sono segnali di chiusura. Le ritorsioni europee non sembrano in realtà preoccupare chi ha sostenuto il referendum, pure da sinistra, come il verde Sergio Savoia. Storia di emigrazione familiare e battaglia dura ora per il ritorno alle quote. I miei genitori sono venuti con la classica valigia di cartone ed entrambi hanno votato sì. I miei genitori sono partiti da un paese che non riusciva a dar loro da mangiare. Sostenere la chiusura in qualche modo o i limiti nei confronti di altre persone che casomai nella stessa situazione di come eravate voi bussano alle porte della Svizzera? Parliamo di regolare il flusso, cosa che adesso non si può fare in alcuna maniera perché è contrario agli accordi di libera circolazione. Quando noi parliamo di mettere dei contingenti, non c'è scritto da nessuna parte quanto saranno alti questi contingenti. Questo è un paese in cui la gente entra ed esce, continua a entrare e uscire regolarmente, non c'è nessuna chiusura. Però io le rivolgo un'altra domanda: che politica è quella di un paese che permette a tutti di entrare e poi si disinteressa di come vivono gli stranieri? Li troviamo agli angoli delle strade a pulire i parabrezza, nei campi, alle periferie delle città. Bisogna far entrare le persone alle quali siamo in grado di assicurare delle condizioni di vita decenti. Le persone hanno capito dopo 10 anni di libera circolazione che non è il paese del Bengodi. Noi siamo un paese molto ricco, siamo un paese che funziona, vogliamo continuare a funzionare per gli stranieri residenti e per i ticinesi e anche per i frontalieri. Questa è responsabilità. Pranza insieme al giovane leader della Lega ticinese, Boris Bignasca, molto corteggiato dai cugini della Padania. Il canton Ticino ha votato al 70% questa iniziativa, i cantoni della Svizzera tedesca ci hanno seguito, quelli della Svizzera francese diciamo un po' meno, sono più europeisti. ma io credo che per i ticinesi queste ritorsioni non fanno che alimentare il sentimento euroscettico che è già insito nella popolazione svizzera. Ci hanno minacciato di rescindere anche degli accordi a livello di istruzione e di ricerca universitaria, omettendo di dire che la Svizzera a questi fondi contribuisce più di quanto riceve. Io credo che la Svizzera esiste da 700 anni, l'Unione Europea esiste da più o meno 20 anni, non sarà sicuramente l'Unione Europea che distruggerà un tessuto economico e un tessuto democratico che è antico ed è solido. Il referendum elvetico, senza dubbio, dà altro fiato alle trombe degli euroscettici e la piccola Svizzera, ancora una volta, rischia ora di intaccare una delle colonne portanti della grande Europa, con conseguenze che nessuno può immaginare. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.